Il nostro corrispondente da Praga, Alessio Marchetti, oggi ci ripropone la difficile situazione della popolazione cecena, che con lo smantellamento del campo profughi Sputnik situato in Inguscezia, ripropone la popolazione civile cecena appunto sempre in fuga da una guerra ormai infinita. Il governo ha stanziato per loro l'equivalente di 29 euro e la promessa dell'apertura di un conto corrente per chi tornerà in Cecenia. Naturalmente le autorità russe non hanno lasciato nessun tipo di alternativa, minacciando di abbattere con i bulldozer le tende dei profughi che si rifiutassero di lasciare il campo. Sono più di 5.000 i profughi che sono stati costretti a lasciare l'ingiustizia sotto minaccia dei soldati russi e delle milizie locali. Tutto questo davanti all'indifferenza dei governi e delle comunità internazionali. Su questa guerra nessuno se ne occupa più, tranne che le organizzazioni umanitarie, prime fra tutte Amnesty International e Watch Human Rights, che più volte hanno protestato presso le autorità russe e internazionali per far sì che questo cessi. Barbara Galeazzi, reporter associati per Amisnet Radio.